Radio 24 Reportage. La Grecia alla prova dei tagli, stretta tra la disoccupazione e gli aiuti europei. Di Valeria De Rosa. Se arrivi ad Atene e non conosci le condizioni economiche di questo paese di 11 milioni di abitanti, di cui poco più della metà vivono nella capitale, non salta all'occhio la difficoltà che gran parte di queste persone vive. Però poi ti accorgi dei tanti cartelli affittasi, dei negozi vuoti, dei ristoranti chiusi. Negli ultimi mesi i governi che si sono succeduti hanno tagliato più volte le pensioni, la sanità, i salari. Chi entra oggi nel mercato del lavoro con un contratto nel settore privato ha un salario di ingresso di 500 euro lordi. La pressione fiscale è salita, ma i prezzi non sono diminuiti. Angelis Yanis è un economista. Parla italiano perché ha studiato a Bologna, come molti figli della borghesia ellenica. Ha fondato un giornale, Cefaleo. In italiano significa capitale. È sostenibile per la Grecia il costo sociale di questa austerità? È già insostenibile. Questo si vede anche dal numero, grandissimo numero di suicidi che si sono, il quale non, in Grecia non c'era mai. Non a causa solo del tempo, ma anche, sai, della vita. Adesso giovani devono partire per trovare un posto per lavoro e poi famiglie che avevano due o tre persone che lavoravano non hanno nessuna e non hanno neanche un come lo chiamate voi, il sostegno insomma di Stato, il quale è quasi esaurito. Allora non c'è una possibilità di vivere, insomma. E questo è insostenibile. La gente adesso, la maggior parte della gente, dato che la disoccupazione è al 26 ufficialmente, ma anche questo 26 è molto più grande, la gioventù è quasi 60% la disoccupazione. Poi quelli che hanno un lavoro, hanno uno stipendio quasi il mezzo di quello che era prima. Allora, anche il fatto di avere famiglie con uno stipendio è già un grande problema. Ma almeno le misure decise con l'Europa o dall'Europa, come la vogliamo vedere, riusciranno secondo lei a riportare il paese almeno a un ordine nei conti? C'è un, come si dice in italiano, un proverbio che dice quanto l'asino ha imparato di non mangiare, era già morto. Allora non so se c'è il tempo di mettere la situazione in ordine. La gente non so se può aspettare più. Atene, vista dall'alto, somiglia a una città araba, si estende dalle colline al mare in modo disordinato, sembra ingovernabile come il paese. Invece i ministri che incontriamo fanno a gara per raccontarci, con versioni molto simili tra loro, che il paese ha fatto sforzi inimmaginabili, passi avanti insperati fino allo scorso anno. Quello che molti in Europa consideravano un caso perso è ora solo un caso, difficile, complesso, ma un caso. È molto difficile convincere l'opinione pubblica della necessità di adottare misure di adeguamento finanziario così pesanti, perché per qualsiasi cittadino è più ragionevole implementare politiche anticicliche. Il problema principale è che servono capitali. Altrimenti è impossibile portare avanti politiche simili. Le conseguenze, come la recessione e la disoccupazione, sono assolutamente negative. Storicamente la Grecia è il laboratorio per studiare le conseguenze di questa politica. Per l'Unione Europea, i leader e la società europea è fondamentale studiare bene cosa sta accadendo. La Grecia non è l'unico caso. Questa è una formula spesso usata dal Consiglio europeo e dall'Eurogruppo, ma la Grecia non è un caso isolato. Abbiamo la stessa situazione in Portogallo, in Spagna, paesi dove non ci sono solo problemi di coesione sociale, ma anche di coesione geografica dopo l'applicazione di programmi così duri. After the implementation of a tough program of fiscal adjustment. A parlare Evangelos Venizelos, presidente del PASOK. Il Partito Socialista è nella coalizione di governo. Alle ultime elezioni è precipitato dal 44 al 12%. La direzione ha quindi deciso di non avere un ruolo attivo nell'esecutivo. Ecco perché Venizelos si lascia andare a osservazioni forse condivise, ma non esplicitate dai ministri di Samaras. L'inverno sarà duro, dice Alexis Papakelas. Lui dirige Kathimerini, quotidiano liberale tra i più diffusi, lettura della elite greca, la classe dirigente. Un inverno difficile, ma di svolta, la Grecia è arrivata al limite. Il paese ha sofferto la recessione per 6 anni. Penso che l'impatto per le ultime misure varate, come i tagli, l'abbassamento dei salari, l'aumento delle tasse, sta cominciando a farsi sentire. Penso che sarà un inverno duro, difficile. La gente è in attesa di vedere la luce in fondo al tunnel, un segnale, un accenno di crescita. Ma questo inverno sarà duro, difficile. Credo che il sistema politico non possa procedere a nuovi tagli. Non c'è possibilità che questo Parlamento possa tagliare ancora sulla sanità, sulle pensioni. Il sistema ha raggiunto il limite di tolleranza. Siamo alla fine di questa strada. Il fallimento non è una possibilità, ci dice il portavoce del governo, ma è sulla pelle della gente che il paese sta tentando di risalire. L'imposizione del salario minimo, la riduzione drastica dei posti di lavoro, i tagli nelle pensioni e nella sanità. Ioannis Panagopoulos è il presidente del sindacato pubblico. Ci siamo rivolti al Tribunale greco, ci dice, e poi alla Corte europea per i diritti dell'uomo. Stanno calpestando i diritti della gente. Il salario minimo, per esempio, è una violazione. Per la strada molti sono quelli arrabbiati, che ce l'hanno con i politici, i corrotti. La corruzione è la grande piaga della Grecia. Ci sono però anche quelli che, nonostante la loro vita sia cambiata, riconoscono la necessità delle misure. Costa se lo incontriamo in centro, ci dice che ha dovuto ridimensionare un po' tutto, dallo shopping al cibo. Le priorità sono cambiate, ma spera che le cose migliorino. Poco dopo incontriamo Olga, parla italiano, ha studiato all'Aquila. Questo è un Natale difficile per tutto lo Stato, perché ci sono tantissimi e gravissimi problemi economici, tantissima disoccupazione dei giovani e della nostra età, per esempio. Speriamo, delle epoche migliori. Ma avete fiducia nel futuro? Abbiamo fiducia, non lo so, del futuro, delle generazioni futuri, che le cose migliorano. Sì, ce l'ho. Sono una delle... Non è il lavoro che avevo studiato, non è la cosa che avevo fatto, però almeno sopravvivo nella nostra epoca. Non so. Ce la faccio, ancora ce la faccio. È allegra, solare, ma quando ci racconta del suo lavoro, le sue parole spengono il nostro sorriso. Studiavo medicina e chirurgia, ho finito qua una specializzazione di psichiatria e stavo lavorando qua in un ospedale privato. Ormai non lavoro più. Faccio un altro lavoro in un ristorante, altro tipo di lavoro. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.